due minuti di ritardo. A Bari su, c'hai rotto il cazzo, eh. Andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta. Questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta. Io mi sono stufato. Gli ho dato fiducia e hanno fatto dell'ironia sul terremoto. Allora, ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Roma, ore 19:28, Prenestina, angolo Palmiro Togliatti, semaforo rosso, con la moto mi affianco una strafiga che ascolta la Zanzara. Io, ciao Zanzarina, lei, ma vaffanculo, mica sono la pecora dei Cruciani. Allora, o fate i giornalisti o fate i politici, perché è inutile che usate la tessera da giornalista per fare propaganda politica. Andate a fare in culo, cazzo. Pare, certo che fai cacà proprio, fai vedere i lati alla ginocchia, quanto cazzo sei brutto all'aria che tiro, mamma mi lo guarda, mamma fai paura proprio, pare, aiutatelo, senti che sei brutto, curto e brutto, un abbraccio caro Palenzo, la minoranza silenziosa, anzi no, la maggioranza silenziosa dei miei coglioni, un abbraccio di nuovo. Bello che questo che alterna sì. Parole di grande affetto, sì, parole di grande odio, affetto sì. A odio ma puro. Guarda che dietro questa roba qua c'è soltanto una persona, cioè il criminale non è quel poveretto decorticato che telefona, mi guarda in TV, telefona e lascia il messaggio. Il vero criminale si chiama la corte e siede lì a Viale Monterosa, è lui il vero criminale di questa, che con la sua tastiera lì, con un audio come un grillo qualunque, basta un click e manda in onda questi audio. È il grillo della Zanzara. Esatto, montati, cuciti ad arte, apposta. È lui il criminale, è lui. Allora, mi scrive uno, ho sentito il vostro discorso ieri sui piedi, sono andato a cena e vicino a me c'era una ragazza di tutto rispetto. Dopo un po' che la osservavo, ho pensato a voi, in particolare a me, e ho guardato i suoi piedi, facevano schifo e diventata di colpo un cesso. Ora guardo solo i piedi, voi state più fuori di me, amico mio. Benvenuto nel club, come dire. No, ma io... No, lo dico a lui, a questo qua che mi ha scritto, non a te. So che tu i piedi non li guardi. No, ma li guardo. Tu non guardi nulla, non guardi nulla. No, comunque, devo dire che la tua compagna dei piedi. La tua compagna dei bei piedi, se non ricordo male, se non ricordo male. Dove ho visto? Dove l'hai visto? La volta in cui l'ho vista, ha dei bei piedi. Attenzione, attenzione. Cara Natalia, ti comunico, se stai ascoltando, che hai dei bei piedi. Per carità, non mi permetterei mai. Non mi permetterei mai. Per carità, grande rispetto. Meglio tu di altri. Grande rispetto. Ma se dire, non ricordo male, se non ricordo male, però non ricordo bene, non ho ricordi nitidi, cosa hai pazzesca. Dei piedi belli. Vabbè, ma non gli ho detto mica che c'ha che è una criminale di guerra. Fermiamoci, scusa. Ma ho capito. Ma ho capito, non l'ho detto che è una criminale. Ho capito. Scusami, cosa pazzesca. Ma come se avessi detto che è Totò Riina? Ma no, ho capito, ti pare, ma io non lo che so. Che porta delle bombe a mano dietro. Ho detto che ha dei bei piedi, dai. Da quello che ricordo, Da quello che ricordo. Allora, la signora Boldrini ha preso a cuore una vicenda che riguarda, sì, ragazzi, ascoltate bene, sì, 330 persone. Sì. Cioè, in un buco del paese, detto con tutto il rispetto, che si trova in provincia di Mantova, dove è stata eletta una ragazza che si chiama, non a caso, Fiamma. Fiamma, una neofascista che non doveva essere eletta. Ma una di 20 anni che non dice una parola. Brava la terza carica dello Stato che pone un problema politico e pone un problema al Viminale che avrebbe dovuto eliminare quella lista prima che si presentasse alle elezioni. Dai, ottima la Boldrini in questo caso, bravissima. Pessima. Si occupasse di qualcosa di più importante, non di 300 voti che hanno portato una lista che si chiama i fasci del lavoro, non so come, al consiglio comunale. Ma non si occupasse di cose più importanti. Ma no, ha ragione Presidente della Camera, non poteva neanche presentarsi alle elezioni, il simbolo non doveva neanche essere stampato sulla scheda, ma di che parliamo? Ora, secondo Toscani, secondo il signor Toscani, i democristiani sono come i topi e gli scarafaggi. Signor oggi, Toscani, sì. Oliviero Toscani. Non si sa più bene cos'è la sinistra e la destra, insomma. I democristiani ormai sono infiltrati dappertutto. C'è niente da fare, non li fermi, sono come gli scarafaggi, come i topi. Beh, entrano adesso dappertutto. Allora vi faccio ascoltare, ragazzi, questo audio strepitoso del signor Alfano. Alfano. No, è tanto, ministro degli esteri. Sì, è tanto che non si sentiva. Ministro degli esteri Alfano. Il quale, come dire, esulta per il presunto successo elettorale di Alternativa. Com'è che si chiama, che tu sei meglio di me queste cose? Alternativa Popolare. Alternativa Popolare, già il nome fa ridere, diciamo. Non c'è nessuna alternativa popolare, perché stai al governo. Dunque, quale alternativa c'è? Ma tanto ci vorrebbe anche il popolo. Esatto, ma quale? Non c'è il popolo. Questo non lo so io. Vabbè, adesso tu lo devi fare democristiano. No, Alternativa Popolare, d'accordo, ma ti capisco. Alternativa Popolare, lo dico io, non ti preoccupare. No, io, no, ma faccio io le tue veci. No, faccio, ma io non ti posso preoccupare. Anche pensarlo, voglio non dire, alternativa è un'alternativa, cioè, quando c'è un popolo, quindi c'è un'alternativa. Ecco, mancando un po' il popolo, forse manca anche l'alternativa, però voglio dire, è una considerazione che faccio veramente con pacatezza. Dice, siamo forti, dalla bravo Brianza, ministro degli esteri, dalla Brianza a Lampedusa. Hai appena detto una cosa per cui potresti essere incriminato. È un bravo ministro degli esteri. Beh, sì, molto autorevole, gira ti potrebbero le incriminare. Più importanti cancellerie europee. Gira. Ti potrebbero incriminare. Esteri, gira. Ti potrebbero incriminare, hai detto che è un bravo ministro. Ti potrebbe, sì, ti potrebbe, sì, qualcuno mi ti potrebbe pare incriminare. Che sia. Alfano, sentite questa cosa che fa ridere, fa scompisciare la risata. Alfano. Noi siamo molto soddisfatti dell'esito di queste elezioni amministrative. Dalla Brianza a Lampedusa, noi abbiamo dimostrato di avere una consistenza molto forte. Una consistenza molto forte dalla Brianza. Dalla Brianza a Lampedusa, ragazzi. Mamma mia, mamma mia! E non dico più nulla, mamma mia. Comunque, il fatto che ormai è iniziata la campagna elettorale, anche se non si sa, magari si potrà votare a marzo, come a novembre, a dicembre, non si sa niente, non ce ne fotte nulla, è testimoniata dal fatto che a un certo punto, durante la trasmissione di ieri, Quinta Colonna, se non sbaglio, Quinta Colonna, sì, interviene a un certo punto di fronte a un caso drammatico che riguarda un signore che ha dei gravissimi problemi, un tizio che si chiama Manuel, che ha un problema con la casa, la famiglia disastrata, interviene Berlusca. Sì. Pronto? Sì, pronto, la sento lontanissima. Eccoci. Chi è? Buonasera. Pronto, buonasera. Sono Paolo del Debbio. Paolo, buonasera, ciao. Buonasera. Senti, no, ho visto questa situazione, sì, di Manuel, sì, e allora volevo semplicemente intervenire per dire che mercoledì sono a Roma, se viene a trovarmi. Va bene. La vicenda della casa la sistemo io. D'accordo, grazie. La ringrazio anche Manuel. Grazie. Buonanotte. Buonanotte, ciao. Il signor Berlusconi, beh, secondo me è sempre al top. È sempre il top assoluto. È un tipo comunque all'Achille Lauro, è sempre all'Achille Lauro. Ma è di una generosità estrema, sì, dai. Però, è una capito, cosa ragazzi, meravigliosa anche, capito, cioè, però, dai, adesso lo abbiamo, no, sì, però dal 94 lo avete attaccato io mortacci tua. Cambia io tutto, cambia tutto, la gente mica si ricorda. Lo avete vergognosamente attaccato per anni. C'è stato un golpe politico giudiziario che avete costruito. Lo avete incassì, poi non è mai stato condannato per nulla. Adesso arriva il Graviano. Vergognatevi. Avete un uomo che comunque ha fatto il suo. Gli avete fatto di tutto. Gli avete detto che andava, che c'erano le ragazzine a casa. Lo avete sputtanato per vent'anni. Sì. Quest'uomo. Devi solo vergognarti. Io non so come ti abbiano dato il permesso di farlo, peraltro. Ogni giorno con questo microfono in mano. Hai fatto una. Guarda, sei un distruttore del paese. C'era un signore che comunque sì, vabbè, imprenditore, avrà fatto qualche cosina, d'accordo. Però governava col consenso. Con il consenso, eletto, sempre eletto. Ora c'erano governi non hanno eletti. Fatto un golpe. Lo un golpe, come no, il golpe dello spread, lo avete massacrato per anni, ti devi solo vergognare di quello che... Guarda la generosità di quest'uomo che addirittura telefona e risolve il problema. La politica dov'è? Lui non è al governo e nonostante questo risolve i problemi. Ti devi vergognare, lo hai per vent'anni massacrato, per vent'anni. Vergognati. È una roba da Achille Lauro, sì, uno che interviene e regala la pasta, sì. Dai su, sì, risolvo io il problema della casa. Ma dai, certo, su. Non lo fa la allora, politica, si incazzassero la gente che tu tutti. Da vent'anni sostieni. Ragazzi, questo qua, quando va a Palazzo Grazioli martedì, mercoledì a Roma, sì, giovedì, domani, venerdì, detto, domani, no, domani, domani, quindi sì, domani. Allora, insieme a lui dovrebbero andare altri, tutti quelli che hanno problemi di casa. Tutti quelli che hanno un problema con la casa andassero dietro queste e Berlusconi deve risolvere il problema di ciascuna di queste persone, una per una. Onde che chiudete, cornuti? La Zanzara. Che vi devo dire, ragazzi? La vendetta di Alfano si è compiuta. Forza Angelino, spaccali tutti. Citti, ma cosa pensi di questa trasmissione? Io non posso neanche pensare che esista uno schifo di trasmissione così, che l'umanità sia caduta così in basso. E se solo penso che tu ascolti questo schifo di trasmissione, non ti scopo più. Il punto cruciale è la caviglia. Eccolo. Dimmi, perché senza caviglia bella non esiste un bel piede. Belardi, questo perfetto. È il punto. Questo era il signor Claudio Belardi, certo, sui piedi, certo, delle donne. Signor Claudio Belardi, persona serissima. Sì, storico dirigente politico. Ma giustamente si interessa di più dei piedi e delle caviglie, sì, delle donne, sì, piuttosto che del panorama, dello scenario politico. Chiaro? Sì, sì. Allora, ci sono delle volte in cui non mi pento di avere votato i 5 Stelle. Per esempio, magari lo faranno in maniera strumentale, magari poi non faranno nulla, anzi a Roma forse vogliono dare addirittura dei soldi ai Rom per andarsene dai campi, cosa che mi fa venire l'orticaria. Però la Raggi oggi ha detto che bisogna limitare la presenza di migranti a Roma, e Grillo ha detto che si va verso la chiusura, sì, sì, dei campi Rom. Eccetera, no, eccetera. Dilla tutta, il piano Rom della Raggi è un ottimo piano sulla carta, perché prevede anche di dare dei soldi, degli incentivi ai Rom. Quindi dilla tutta. Poi, siccome però forse si sono accorti che questo è impopolare, allora fanno anche la voce grossa. Quindi chiedono oggi al prefetto. Poi vuole fare la guerra anche a chi chiede soldi in metropolitana, sì, magari con minorenni al seguito. Ma cominciassero a mettere a posto le buche, cosa vuol dire? Quelli sono, come si fa a combattere? Combatte la povertà, la si combatte creando del lavoro, attraendo capitale dall'estero. Come si fa a combattere il mendicante? Che male da fare? Il mendicante va aiutato. Ma il mendicante va aiutato, non è che va cosa vuol dire? Combattere il mendicante? Che cosa vuol dire combattere il mendicante? Comunque, quello che Berlusconi vuole aiutare, ha una moglie, tre figli, di cui uno invalido al 100%, e rischia, pazzesco, ovviamente di finire in mezzo alla strada. Siamo disperati. Allora, Nicola Porro contro i 5 Stelle sulla questione del reddito minimo, no? Del reddito, famoso reddito di cittadinanza dei, sì, 5 Stelle, sì, che io ho sempre considerato una puttanata mega galattica. Porro contro il deputato Bonafede. Se tu rifiuti queste tre proposte, poi perdi anche il reddito di cittadinanza. È molto semplice. Noi le coperture, perché ogni volta le coperture io ce l'ho qui. Le tre proposte lo Stato come le dà? Lo Stato tre volte gli lavori come li dà, Bonafede? Ma dove vive? Dove vive? Come trova a 2 milioni di ragazzi tre offerte di lavoro? Li fa fare tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle? Tre offerte di lavoro? Ma da dove esce? Mi risponda, reddito di Mastella, cittadinanza. Mastella, mi risponda. Ora le rispondo. Mastella, mi risponda. No, guardi, non arrivi a questo punto. Io non sbaglio, no, lei però, non si può permettere di dire non è che io non ho letto sta rottura di balle, no, negli ultimi 2 anni mi ha fatto una testa così. Perfetto. Io le faccio una domanda: dove trova 6 milioni di offerte di lavoro? No, mi ma risponda. Questa domanda è, non con i questa 10 domanda è assurda, trovato, perché come io le trova, dico... Benissimo. Se no lei prende per il culo i ragazzi. No, che non glielo permetto, Nicola, non glielo permetto. Questo non glielo permetto, perché se lei no, ascolti, Nicola, calma, se lei vuole dialogare con me, a me fa piacere. Calma. Lei è così suscettibile. Se no che fa? Allora, a proposito di Rina, devo dare ragione oggi a Rosy Bindi, assolutamente. La quale dice che Rina è perfettamente vigile, non ha detto perfettamente, ma insomma è vigile, dunque è ancora pericoloso, è il capo di Cosa Nostra e dunque non può essere scarcerato. No, ha detto anche un'altra cosa, che poi non, si può anche, si può anche curare tranquillamente in carcere. Cioè... Ha detto una cosa interessante, io apprezzo molto Presidente Bindi, ha detto che si cura forse meglio in carcere, ecco, su questo. No, ma non so, non è che si cura molto meglio in carcere, ha detto che si può tranquillamente morire dignitosamente in carcere, comunque Rina non può uscire dalla galera, così ha detto, non può uscire dalla galera perché intellettivamente interloquisce normalmente, forse un po' comunque capisce tutto, ragazzi, cioè può capire perfettamente le cose, al contrario di quello che dice l'avvocato, l'ha detto signora Rosy Bindi, il capo dell'antimafia. Oh. Dal punto di vista intellettivo, come chiarito dai medici e come confermato dagli agenti del GOM e addetti alla sorveglianza H24, Irina interloquisce normalmente con il personale medico, paramedico e della polizia penitenziaria. Svolge i colloqui familiari e con il suo difensore. Scrive lettere ai parenti e legge senza difficoltà quelle che riceve. Ragazzi, questo può ancora comandare, può ancora comandare, dice Rosy Bindi. Ma è il contrario di quello che diceva l'avvocato a noi l'altro giorno, che ci ha detto che non può capire un cazzo. E non è un lui ci ha dipinto una situazione all'avvocato in cui sembrava che Rina fosse un vegetale, diciamo la verità. Sarà una guerra di perizie, diciamo così. Ho capito, dai, però quindi dai, Giulio, vai, Giulio Varese. Pronto, Cruciani. Dimmi, dimmi. Due cose. La prima è, mi parli dei piedi e dimentichi l'ascella. Vabbè, te la passo. Ma adesso non ti preoccupare, poi abbiamo tempo, abbiamo tutte tempo. Le parti del corpo, diciamo. L'ascella è fondamentale, ma ne abbiamo già parlato. Qui abbiamo esplorato ogni campo dello scibile umano. Va bene, vai. Lasciamo stare l'ascella. Io per lavoro... Partiamo anzi da un principio veloce, sì, veloce. Giulio, non possiamo fare un dibattito. Un comunista, mi segui? Sì, sì. Uno che amava le minoranze, eccetera. Ora mi trovo a lavorare in un CAF, per cui ho i musulmani tutto il giorno davanti alla faccia, sì. E ti posso dire che sono delle persone che vengono qui a prendere. Loro vogliono solo prendere. Ma chi? I musulmani. I musulmani, dice. Chi? Ma che generalizzazioni sono? Ma che sarebbero cosa gli dire? Immigrati che ti trovi di fronte, chi? Esatto. Dunque, cosa vuol dire a prendere? Non è una generalizzazione, perché io ho dei numeri. Vorranno avere i loro diritti. Lei lavora in un CAF, mi pare di aver capito, no? Dunque, il CAF. Che succede? Succede che nel momento in cui loro vogliono solamente prendere, e ti chiedono, ti forzano a trovare delle scorciatoie per prendere. Ma nel momento in cui tu gli fai un 730 e gli dici, amico caro, devi pagare 50 euro, questi ti mollano le cartelline, non vogliono pagare un cazzo. Cioè, non vogliono pagare che cosa? Il servizio? Non ho capito. Il 730? No, le tasse allo Stato italiano. Vabbè, ma comunque che c'entra i musulmani? Stai generalizzando i musulmani. Fermo lì. Quattrini, scusami, sei una brava ragazza. Quattrini, sei un'amica dei cristiani. Ed è morta. Intervengano i commessi. Quattrini, ed è morta. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'80024 0024, oppure se volete mandare ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Lorenzo, ma è inutile che scorreggi dalla bocca per rompere i coglioni a chi va a puttane. Se facevi l'operaio, se eri un operaio e prendevi 1.000 euro al mese, ma chi cazzo ti scopava a te senza pagare? Lorenzo, hai rotto il cazzo tu, la rabbia, i musulmani e tutto questo, ma perché non te ne vai a vivere in quel in quei paesi, non ci rompi più il cazzo a noi qua, vai là, vai a vivere lì, ti faccio vedere come ti trovi bene, vai. E che cazzo. Citti, ma cosa pensi di questa trasmissione? Io non posso neanche pensare che esista uno schifo di trasmissione così, che l'umanità sia caduta così in basso. E se solo penso che tu ascolti questo schifo di trasmissione, non ti scopo più. tanto così ho fatto guadagnare parecchio, perché lì funziona a parolaccio. Caro David, il presidente della regione Veneto Zaia ha detto di essere a favore della libertà di vaccino, addirittura farà ricorso contro il decreto della Lorenzin, cioè non si tratta di un passante qualsiasi. Sbagliato, ma in genere ho grande stima del presidente Zaia, perché è un leghista anche moderato, è una persona, insomma, ha detto che la questione dei vaccini va affrontata con la cultura, con le discussioni, con il convincimento e non con l'imposizione. Ma come? Di una legge di, ma è una follia, è una questione di sanità pubblica. Stai dicendo che è una follia? No, questo non lo direi mai. Dico che è una follia questa cosa che dice Zaia in merito ai vaccini, perché solo per legge tu puoi debellare malattie che prima... Ma in altri paesi prima... non c'è l'obbligo. Non te lo sei chiesto? Perché no, non c'è l'obbligo in altri paesi? Ci sono obblighi molto precisi. Ma ad esempio, in nessun negli Stati paese Uniti, c'è l'obbligo di 12 negli vaccini. Negli Stati Uniti, per iscriverti a scuola, hai l'obbligo esattamente di fare in dei molti vaccini. Paesi, non c'è nessun paese che ha l'obbligo di 12 vaccini. Te la sei mai posta questa domanda? Un livello di vaccinazione più alto del nostro. Anche qui c'è un grande livello di vaccinazione. No, te la sei mai posta? Io dico, io faccio vaccinare. Me la sono posta. Io faccio tutti posto. I vaccini che mi dicono, li faccio fare a mia figlia. Me lo sono posto, non e penso che non c'entrano nulla le case farmaceutiche. No, ma io non ho detto questo. Io non ho detto che ti sei posto la domanda, sì. Perché la posto, solo in Italia 12 vaccini? Perché? Te la sei fatta questa domanda o no? Bisogna farsela questa domanda. Bisogna fare, che vuol dire? Che risposta ti dai? Non lo so. Ti fidi del ministro della sanità? Della salute? Assolutamente sì. Mi fido del ministro Lorenzin, perché è un ministro bravo. Beh, mi pare sta facendo dei provvedimenti anche apparentemente impopolari. Ma che impopolari? Non so se sono impopolari. Apparentemente ho detto impopolari, perché quattro minchioni della rete cominciano a scrivere. Ma non a fare, sono quattro minchioni. Il presidente della regione Veneto dice che non è sbagliato l'obbligo. Il presidente della regione Veneto. Non Quisque de Popolo, non un passante. Il presidente della regione Veneto. Lo conosco da tanti anni. Lo reputo un bravo presidente. Guarda, anche se è della Lega, mi sembra una persona, tra l'altro, anche un moderato. Vabbè, non allora... segue le linee salviniane. Si è fatto sì, perché ho visto un post su questo, che lui dice la stessa cosa di Salvini. No, cosa lui ha fatto un post tempo fa con ma lasciamo perdere, allora? Ed è stato massacrato dai suoi stessi. Ha detto zitti, state zitti. Lo rifarei cento volte. Cioè ha anche, come dire, vergato allora? Il suo elettorato. Quindi ha la mia stima quando uno verga però il proprio elettorato. Però ha detto una cazzata. Su questa cosa ha detto una cazzata, senza dubbio. A proposito di Napoli e delle formiche in ospedale, ho sentito prima una notizia quasi incredibile. Cioè, la procura apre un'inchiesta sulle formiche. Meno male. Ragazzi, no, ragazzi. Beh, certo. Ma non è che ogni cosa si può aprire l'inchiesta della procura. Amico mio, l'inchiesta sulle formiche fa ridere. Io fossi nei che cosa parenti facciamo? Di quella Interroga le formiche per capire da dove sono venute? Faccia l'interrogatorio alle formiche? Non si può fare l'indagine sulle formiche. Ma io denuncerei l'ospedale, ma non puoi aprire un'inchiesta sulle formiche. Ma non puoi puoi parlare dei piedi, no? E la procura dai, non può aprire un'inchiesta sulle formiche. Ma qua dai. Allora, secondo il tizio dei Verdi che ha fatto scatenare tutto il casino, che si chiama Borrelli, che peraltro è lontano parente, ho scoperto stamattina di Borrelli, del procuratore della Repubblica. Lontano, certo, glielo avevo chiesto. Lontano. Io scherzando gli ho detto: ma lei è parente? Cioè, sì, cugino, lontano. Borrelli, i topi al San Paolo, che non è lo stadio ma è l'ospedale, sempre fogna perché pure il San Paolo non è che da quel punto di vista, come dire, brilla. I topi al San Paolo, ci stanno le trappole, fogna dal punto di vista igienico naturalmente. Il San Paolo è da tempo monitorato perché ci sono state diverse denunce provate di invasione di insetti, addirittura di topi. Ci stanno le trappole per topi all'interno dell'ospedale. Questa cosa è stupenda, le trappole per topi all'interno dell'ospedale. Allora ragazzi, diciamo, se uno è monitorato perché ci sono gli animali dentro, non è una situazione normale. No. Cioè è una situazione che va militarizzata. Militarizzata. Sì, adesso questo perché lei è sempre estremo. Ma non lo so, non è possibile accettare come una cosa normale il fatto che dentro un ospedale proliferano gli animali, le bestie, gli scarafaggi, le formiche, eccetera. Lo reputiamo una cosa normale? Non è normale. No, non è normale. Vai in un ospedale in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, ma anche in grande parte d'Italia. Non succede, non c'è, brilla tutto brilla. Magari saranno privati, ma tutto brilla. Allora, Giordano, il tuo amico Giordano, sei un cattolico e radicale, io sono felice. Sei islamico o no? Senti. Se uno mi dice che vive in modo radicale il cattolicesimo, sono contento perché penso a San Francesco, penso a Madre Teresa di Calcutta. Invece gli islamici, se vivono radicalmente la loro religione, diventano terroristi. Ci sarà qualcosa che non funziona? Cecchi Paone. Università Cattolica di Trento ha tirato fuori i brigatisti rossi. C'è? Quindi attenzione. Posso dire che il paragone di Cecchi Paone è una puttanata? No, cosa però c'entra? Ci, dai, però ma non dire cazzate, ci sta, dai, su. Che ma cosa c'entra l'Università di Trento Cattolica che ha partorito le BR? Non c'entra nulla, ci no? Ci sta che il fanatismo... Mica le BR ammazzavano in nome di Dio, dai, su, non no, dire puttanata. Certo, dai. Ma il fanatismo non ha è un'etichetta. Ma in questo momento la maggior parte del fanatismo... Adesso ti mando Donato. La maggior parte del fanatismo, la maggior parte del fanatismo è targata Islam. Islam, chiaro? Islam radicale. Non mi interessa, ma non Islam. Roberto da Bari, vai. Roberto. Oh. Pronto. Dimmi. Volevo chiedere una cosa, perché vedo che il vostro bersaglio preferito, non solo vostro, ma di molti ascoltatori, è la Boldrini. Ma non è affatto un bersaglio. Non ma è perché ce l'hanno tanto con la Boldrini? Ma io non ce l'ho affatto con la Boldrini. Ma io analizzo e giudico. Fa venire gli immigranti da Benin City in Nigeria. Io non, lo ho, so, detto, io. Io non ho detto che fa venire gli immigranti. Poi c'ha ragione. Sul merito di quella questione di oggi ha perfettamente ragione. Presidentessa della Camera. Si occupasse di altre cose, non di 300 persone che votano i fasci in provincia di Mantova. Quella lista non si doveva presentare. Ma saranno cazzi delle autorità. Autorizzazioni che ha avuto. No, ma che autorizzazione? Ma del è dal 2002 che si presenta quella lista. Ma è sbagliato. Ma è sbagliato, scusami, dico, ma chi lo decidi tu? E allora sbagliato. Tu la prossima volta che senti un rom che dice che ruba, non gli devi dire che sbaglia, perché lui ruba da sempre. Quindi ma glielo cosa puoi dire. C'entra? No, ma chi se lo uno decidi tu? Un reato, ma chi lo decide se uno si può presentare alle elezioni? Tu ma non io, ma o le commissioni legge. Competenti? Ma chi legge. Sei la legge? Tu? Quelli che hanno deciso hanno preso in considerazione la legge? No. Scelba. Sei veramente fascista, lo sai? Sei veramente fascista. Sei fascista. Sei un bel personaggio. C'è una legge che Piero non ha scritta Parenzo. Ma non la decidi tu se una me ne fotto di Piero da Roma. C'è una legge che si chiama me ne fotti legge di quelli che hanno organizzato la presentazione della lista. No, quelli che hanno presentato la lista dovranno spiegare perché hanno ma detto sì violando le leggi. Ma chi te l'ha detto che punto. Violano le leggi? Piero da Roma. Scusa, c'è un simbolo fascista, è vietato. Piero da Roma. Piero da Roma. Me ne fotto di Piero da Roma. Come te lo devo dire? Non voglio sentirlo, vado Piero via. Da Roma. Esco dalla trasmissione. Non ho diritto a non sentire Piero da Roma. Non hai diritto. Ok, rinuncio alla mia paga per questi 10 minuti, ma non voglio sentire Piero da Roma. Piero da non Roma. Voglio sentirlo. Piero. Non voglio, non mi interessa. Sì. Dimmi. Non mi interessa. Dimmi, non mi interessa. Pronto, già la voce che mi sta antipatico. Dimmi, peraltro. Dimmi. Cruciani. Cruciani. Dimmi, Piero, vai avanti. Niente, volevo dirti solo una cosa. Sì. Per tutti coloro che chiamano Parenzo, c'è un nuovo modo di chiamarlo. Piero da Roma, sentiamo. Mantecato di merda. Perfetto, vedi, perché io non so, io non avevo capito. Io ti assicuro che non sapevo che cosa avrebbe vabbè, detto certo, Piero non lo sai, da Roma, non lo sapevo. Mantecato di merda, che vuol dire? Ma già sentivo nell'aria l'odore di merda. È bravo, esatto. No, l'odore di merda magari non è il suo. No, no, l'odore lo Piero, che vuol dire? Che vuol dire mantecato di merda? Vuol dire tutto. Allora dimmi, lucido oltre questo che vuoi dire? Lucido. Che vuoi dire oltre a questa cosa? Senta, notaio, scusi. No, non voglio dire niente. Notaio? Scusi, notaio. Questa però è una voce conosciuta, non so perché. Sì, anche secondo me. Notaio? Piero, dimmi, sembra Richard Benson. Piero? Sì. Piero? Oh! Niente, si è addormentato. Che ha fatto? È morto. Sono Richard Benson. Per il tuo cervello, scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. We'll be right back. Donato da Varese come Oriana Fallaci. Questo lo dice Sgarbi, è quello che dice Sgarbi e legge. Parenzo, rassegnati. E allora ragazzi, a grande richiesta, Donato da Varese. Ma richiesta da chi, scusa? Qualche giorno fa. Non ti preoccupare, grande richiesta. Ma da chi? Tipi da Zanzara. Donato, che c'è? Aspetta, Mustafa, che c'è un amico nostro qua. Donato, che c'è? Dimmi, amico mio, dimmi. Ah, ciao Giuseppe. Dimmi, Donato, ecco, dimmi. Sempre con questa voce. Ciao Giuseppe. Allora, ciao. Ascoltami, Giuseppe. Dimmi, hai sentito questo Mustafa? È stato peccato che a me mi si contano i minuti, i secondi. No, ma allora, no, ovviamente no. Mustafa è in linea? Sì, è in linea Mustafa. Mustafa. Ti ascolto, mi dica. Voglio dirti, io vabbè, ti parlo con tu, non perché per mancare di rispetto, perché io non amo il lei. Tu lo sai che i cristiani... Ascolta. Sì, ti ascolto. Noi per 2000 anni in Italia, sì, non abbiamo mai avuto a che fare con l'Islam. 2000 anni? Sì. Non abbiamo mai avuto a che fare con l'Islam. E allora? Quindi io metterei prima cosa in galera tutta la politica di sinistra che ha fatto entrare qua, vabbè, tutti questi musulmani. Ma non perché io odio questa gente! Questa gente non la odio. Questa gente... adora un Dio che non è il nostro, non mi appartiene, a me allora... Allah non mi appartiene, io ho paura di Allah. Hai paura? Io soltanto a nominare la parola Allah, io mi si blocca il cuore. Il nostro Dio che i cristiani si mettono in testa, i cristiani si mettono, e quel cornuto del Papa, quel cornuto. No, adesso basta. Quelli... Questi vogliono la poligamia per fare che cosa? Per fare che? Dimmi. Mica perché vogliono schiavazzare, mica perché vogliono eiaculare a volontà. Vogliono la poligamia per arrivare a dominare l'Europa. Si prendono 5 mogli a testa, 4 figli a testa, 5 per 4, mi sembra 20, che faccia 24 cada 20, uno. Li dovete moltiplicare anche per 1 milione di musulmani in Italia. Fra 10 anni, dove cazzo andiamo a metterci al riparo? Mustafa, che dici? Cazzo, non metti già arrivato. Dunque, io non ce l'ho con Mustafa. Mustafa deve seguire il suo Dio. E che deve fare? Ritorni al suo paese, dove c'è l'Islam, Marocco, e lasci stare questa terra. Questa terra è sacra. Non ha nulla a che fare con Allah. Allah, questa terra non c'è. E non male che Mustafa. Dunque se ne deve andare a casa. Questa terra è di Allah. L'Italia l'ha creata Allah. Cittadino italiano, è italiano, dice che è italiano Mustafa, è italiano. Io ho più diritto come lei a stare qua in Italia, uno. No, ma non sei sempre, non penso che tu, non credo che tu sia un romano di 4 generazioni, non credo proprio. Stai dicendo allora, che te ne devi andare, questo sta dicendo. No, io a casa mia, a mia casa mia in Marocco, vado. In Marocco non mia, ci sono 1.600.000 di cristiani. In Marocco non esistono 1.600.000 cristiani. Andiamo noi a fare la poligamia in Marocco, dai. Allora 1.600.000 cristiani andassero in Marocco con i cazzi in mano. Voglio 5 mogli. Io non l'ho capito. Ci ammazzano, ci distruggono, ci tagliano la gola. Che cazzo andiamo a prolificare i cristiani in Marocco? E che cazzo c'è se lì c'è Allah? Tu sei un'entropia, prima o poi ti esploderai dentro di te, il tuo niente, abbi il coraggio di dire come stanno le cose, pezzo di merda, pensa ai tuoi figli, pezzo di merda! Combatti, che lui, io amo la musica, Sgarbi ama l'arte e si batte per l'arte. Sgarbi, Vittorio? Beh, devo dire che sono perfettamente d'accordo, condivido tutto. Grande intesa, grande... È un eroe. Ma t'ha dato del figlio, ma t'ha dato del figlio di puttana. Sono un figlio di puttana, una testa di cazzo, uno stronzo, lo sono, ma il mondo è pieno di minori teste di cazzo che sono infinitamente più vigliacchi. Occorre combattere contro i vigliacchi. Tipi da Zanzara. E andiamo avanti, e andiamo avanti. A riascoltare questo florilegio che tu hai riproposto. La cosa più grave è 5x4 24. Sì, quella, cioè, è vero, sì. Tra tutte le bestialità che ha detto, quella più grave è questa, capito? Dai, cioè, questo si scrive. Anche, non so se abbiamo sentito qua il botticino invece del botticello. Sì, cioè, dai, botticino. Ma povero Marco. Ma quello che c'è, quelli sono dettagli, però dai, vai al succo. Vai alla questione. Un decorticato pericoloso. Senti, ho ripescato da un tuo intervento recente a Rapallo il signor David Zard. David Zard, come David Zard, si chiama come te. Il quale dà a Madonna della Zoccola. Sì, allora, il signor, beh, no, lo dice esplicitamente. Il signor, non ricordo. Sì, come non ricordi? E io lo sono a pizzicare, tu non me lo volevi dire. Ma tra tutte le grandi cose che sono uscite da quel convegno, non mi interessa. Non mi interessa. Il signor Zard, grande organizzatore di concerti, tra l'altro anche organizzatore il concerto della signora Madonna in Italia. Sì, certo. Da due della Marlo. Zoccola a Madonna. Sentiamo. Era l'hotel splendido di Portofino, credo. Sì. Sempre c'era, tutti i posti, c'era Madonna e c'era una conferenza stampa. E io, con l'esperienza del primo tour, credevo Madonna mi sembrava proprio una zoticona, scusate la frase. Così. E quindi... Però quando ho visto come ha tenuto la conferenza stampa, mi sono andato a complimentare. E gli ho detto, you sei molto migliorata, complimenti. E c'era il manager che era lontano, che gli urla, what David is telling you? E lei rispose, scusate la frase, is leaking my ass. E allora io le dissi che lei era una zoccola ed è rimasta una zoccola. Beh, mi pare perfetto. Allora, non era presidente, non volevo fare, non è la zanzara, cioè le assicuro, boccia, le assicuro che non avevo previsto questa cosa. Vabbè, allora ragazzi, no, però sì, assolutamente. Vabbè, però sì. Non ho capito, ma sì, leaking my ass, cioè, lei ha capito che che Zard voleva leccare il culo a Madonna? Cioè. Leccami, quello ha detto, esatto. Sì. Leaking my ass, quello. Sì, vabbè, quello Piero, detto, abbiamo ricontattato Piero. Comunque, la cosa incredibile è che Zard è una zoccola. Ma non dice una cosa clamorosa, però molti pensano questo di Madonna. Però. Pronto? Sì, Piero, allora che volevi dire su Parenzo? Perché hai chiuso la linea? Ancora prima? Sto Piero? Sì, Piero. Pronto? Dimmi, Piero, dimmi. Niente, ma avevi chiamato, che volete? No, ti abbiamo richiamato perché hai chiamato tu e volevi attaccare Parenzo dicendo che hai detto che era un mantecato di merda. Che vuol dire mantecato? C'è, cioè, un gelato? Che un vuol gelato, dire? Sì. Cioè, spiegati, spiegati tecnicamente. Si sente il profumo pure alla radio. Ah, si sente il profumo di merda anche alla radio, dici. Scusi, notaio, lei di che cosa si occupa in genere, notaio Piero? Io sono... un povero invalido. Sì, è un invalido. No, mi dispiace, che c'entra che è invalido, però sta parlando al telefono adesso. Vabbè, ho capito, ma non ci importa nulla, però. Dire, no. Vabbè, allora Piero, non ho capito, se sente la puzza di merda di Parenzo anche via etere? Sì, purtroppo sì. Cioè, ti dà fastidio questa cosa? Si sta spargendo per tutta l'Italia. Cioè, ti dà fastidio questa cosa qua? Parenzo, non avere remore, però, solo perché è invalido. Io sono politicamente corretto, quindi non me la sento. Piero, ma ti dà fastidio questa cosa qua? L'abbraccio fortissimo, guardi, l'abbraccio molto forte. Accetti l'abbraccio di Parenzo o senti la puzza di merda, Piero? Pure. Quella si sente sempre. Quella si sente sempre. Vabbè, certo. Ciao. D'accordo. Sì, perché? Non c'è più considerazione per noi italiani. No, non c'è più. Cosa vuol dire per noi italiani? Solo questo odore qui. Ma vabbè, cosa ciao, dice? Ciao. Domenico, provincia di Bari, vai. Pronto? Domenico, dimmi. Senti, no, volevo parlare un attimo con Parenzo. Domenico. Beh, allora, Domenico Parenzo, da Bari, tu mi devi spiegare una cosa. Mi devi Domenico spiegare cosa cambia. Sì, mi devi spiegare cosa cambia tra l'andare a puttane e andare a dimorchiare una ragazza in discoteca. Sì, però chiudi la radio, chiudi la radio, Domenico, ti prego. Sì, sto chiudendo. Appunto, dai. Non ho capito la grande questione. Lui dice che andare a puttane è la stessa cosa sostanzialmente di pagare una bibita o una drink in discoteca. Mi posso permettere, Domenico, io che non criminalizzo la prostituzione, mi pare francamente una puttanata. No, ma perché almeno se vai a prostitute hai la certezza di andare in buca. Ho capito, ma quella è una filosofia che bello... io posso anche condividere, nel senso posso anche non condividere, non posso criminalizzare, va benissimo, io sono per la libertà. Se uno preferisce andare a puttane perché non ha problemi, non ha pensieri, non deve rimorchiare, non si deve impegnare, vuole molto semplicemente brutto. Scopare, va benissimo. Noi caro, come si chiama questo? Caro Domenico, dobbiamo insegnare anche a usare questa radio per farlo la bellezza di che cos'è il corteggiamento. Dobbiamo fare delle lezioni, basta con piedi, basta con dildi, basta con gangbang, tutte queste cose qua. A rivitalizzare la vita sessuale. Noi dobbiamo fare delle lezioni di corteggiamento, lezioni di stile con le donne. Ormai il corteggiamento non serve più a niente. Il corteggiamento può anche servire, cioè l'adrenalina della seduzione. Ecco, bravo, è esatto, ancora ecco, importante. Va riscoperto questo. Dopodiché va riscoperto il me la darà non me la darà, capito? Pure la conquista, se vuoi, che ci com'è deve la storia, essere. Il me la darà non me la darà. Ogni tanto anche la maggioranza silenziosa. Ma è bella questa. La filosofia di base che viene a mancare nel momento in cui tu vai a prostituta. Fermo lì. Ecco, appunto. Le manca la sorpresa perché tu hai già pagato, capito? Lì hai comprato l'amore. Fermi tutti. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. La zanzara. Allora, Angelo Salinardi, a voi il nome non dice nulla, è un personaggio che è sindaco di un paese in provincia di Cosenza. Ha fatto il sindaco per 10 anni. Prima era sindaco, era il fratello. Cioè una specie di dinastia. Caro David, che succede? Che questo qua non può più diventare sindaco. Diventa sindaco una persona di sua fiducia. Sì. Senti cosa dice di questa donna il sindaco dal palco. Per dividerci i compiti, io continuerò a fare il sindaco, di fatto, vice sindaco, ma sindaco di fatto, per le pratiche di Ruoti, per la gestione di Ruoti. La svolgerò io come ho fatto in questi 10 anni. La sindaca al mio fianco, alla mia destra, seguirà la parte istituzionale, la regione, provincia, le riunioni varie che ci saranno nelle varie istituzioni. Allora, stiamo parlando di Ruoti, provincia di Potenza. Sostanzialmente questo sta dicendo, dopo aver governato per 10 anni, che il sindaco appena eletto non conterà una benamata mazza, nulla, la gestione pratica è in mano mia. La gestione pratica del paese sarà in mano a me. Continuerò a firmare regolarmente da lunedì, verrò insieme a lei o da solo come prima nel nostro paese per gestire questa comunità. È incredibile, ragazzi, pubblicamente questo dice: hanno eletto lei, io non posso essere eletta, faccio il vice sindaco, alla fine comando io, chiamiamolo, voglio capire che personaggio è questo qua. Sì. Come andiamo, sindaco? Sì. Sei Cruciani, Radio 24, come andiamo? Parenzo, caro, buonasera. Sì, bene, io non sono sindaco, sono vice sindaco. Ma come non sei? Sei vice sindaco, ma di fatto sei sindaco, dai, Angelo. No, di fatto, non lo so, di fatto, io sono vice sindaco. Ma ho capito, Angelo, però hai detto che sei praticamente fai il sindaco, dai. Questo è detto. Le cose di Ruote le seguo io, le cose di Ruote le devo seguire io. Ho capito, ma non è bello questa, è stata eletta una e tu subito hai detto, per carità, sei uno capace, 10 anni, lì prima c'era tuo fratello. Sì. Però no, praticamente tutta la famiglia, praticamente. Però per un fatto di correttezza, la sindaca è sindaca, poi sono vice sindaca che devo seguire. Ma quello è un fatto formale, dai, lo sappiamo, un fatto di correttezza, una formalità. Quella c'è scritto sindaco, ma in realtà il sindaco sei tu, dai. O no? Ma, eh, Non lo so, faccio vice sindaco. D'accordo, però in mano la situazione, Angelo, scusa, in mano la situazione, diciamocelo tra di noi, dai. In mano la situazione. Ma dovete venire a Ruoti a vedere quello stabile? Sì, certo, veniamo. Quando è che veniamo a vedere lo stabile, Davide? Me ne frega niente a me. Sì. Me ne frega niente. Ma tu come te ne frega niente? Non me ne frega proprio meno di niente. Ma no, è importante. Ma proprio zero, sai cosa vuol dire zero? Dammi retta, è importante. Sì, andiamo a vedere lo stabile. Oh, ecco, bene. Quando possiamo venire, sindaco? Quanto volete? Sì. Quando volete voi? Ma dov'è sto stabile? È nel paese proprio a Ruoti, nella zona Pipe. Ah, ottimo, ottimo. Ma sì, possiamo 1600 metri quadrati. Ah, bene, 1600 metri quadri. Struttura ottima però, eh. Sì, ma io c'ho da fare, però cosa me ne frega? Ma quanto è l'affitto? Non lo so, quello potrebbe essere. Se è convincente chiediamo, se non è convincente è inutile chiedere quanto è l'affitto, se la cosa non... No, ma più o meno, quanto potrebbe essere? Un ordine di grandezza? Ma non ho idea. Pensa poco, 3.000, 2.000, 1.000 euro. No, sì, no, non penso che su di due, almeno 2 euro a metro quadrato, penso. Può essere pure 100. Ma ci puoi mettere una buona parola tu? Sì. Certo. Perciò dico, se vi accompagno io e poi se è confacente l'immobile, allora facciamo. Noi ci serve un immobile, tra l'altro, no? Ma non serve a niente a me l'immobile. No, cioè, non soldi per piangere. È importante, sì. È importante l'immobile. Cioè, nel senso anche ma per io ho già tanti figli, non voglio immobili. Ma le antenne sopra ci sono, sindaco? Sopra l'immobile le antenne ci sono? No, c'è un'abitazione dell'ex proprietario, ma non so se si abita qualche cognato, qualcuno. No, ma le antenne è tutto abbandonato. No, ma le antenne, non abbiamo bisogno di antenne. È per trasmettere, se no come si fa? Non lo so, no. Beh, questo antenne è di fondamentale. No, ma antenne satellitari. Antenne. No, uno non credo che debba mettere l'antenne satellitare, c'hanno le antenne normali per la televisione, credo. Si prende la 7 almeno, Radio 24, si prende o no? Penso di sì. La 7 importante, la 7 importante. No, ma anche Radio 24 se si prende, se no cosa veniamo a fare? Scusi, lì? Allora sindaco, ricapitoliamo un attimo la situazione. La signora se l'è un po'. Vado sindaco. Mi scusi, così dice nei fatti. Sindaco. Dice sindaco. Ah, sì, vabbè, il sindaco se l'è un po' presa per questa storia qua. Dice sindaco. Se l'è, sì, un po', allora. Se l'è un po' presa il sindaco per questa storia qua, perché sostanzialmente hai detto che conti solo tu, cioè che no, lì no, eh sì, in paese lei. Conti tu, conta lei, non io sono il vice sindaco e devo rispettare i ruoli. Ma hai detto che c'è la gestione pratica delle cose, ce l'hai in mano tu, hai detto? Ma no, adesso in questa prima fase le cose di Ruoti lei non le sa, la metto sulla strada per conoscere tutte le cose di Ruoti. Ma scusa, ma hai mai detto che si deve occupare di altre cose? Hai detto si deve occupare dei rapporti con le istituzioni. Più con quelle di Ruoti man mano che prende tagliare i nastri, dai, tagliare i nastri, ma d'altra parte è normale. Ma quali nastri? Ma d'altra parte scusi, ma lei ci conosciamo? Lasci stare questo, mi pare evidente che chi ha più esperienza governa, dai, l'altra deve seguire, anche se è sindaco, segue un po' come un'ombra. No, lei non deve seguire, deve fare quello che vuole. Sì, quello che dici tu, però da quello che ho sentito sì, quello che ha sentito lei non so che cosa. Ma ho sentito una cosa in cui mi hai detto chiaramente, Angelo, scusa, che lei la gestione pratica è in mano a me. La gestione pratica all'inizio devo indirizzarla. Non hai detto all'inizio, hai detto la gestione pratica all'inizio devo indirizzarla perché non conosce l'ambiente. Questo non è bello, però, che uno viene eletto e non sa un cazzo di quello che deve fare. Non è bellissimo. Lo conosce, si impara, eppure io adesso faccio tante cose, mi impara piano piano. Sì, ma non è bella questa cosa qua, capito? Cioè, comunque. Ma no, ma senta, se lei mi vuole tirare qualche cosa, ma lei, la realtà è questa: lei deve fare il sindaco con la piena autonomia. Ma ho capito. Deve fare le cose che deve fare, quando adesso posso dare il suggerimento perché conosco la realtà di Ruoti, avendo fatto il sindaco. In questo momento non sa niente di Ruoti. Adesso fra me, gli altri assessori, il consigliere che verrà quasi tutti i giorni a Ruoti e piglia la visione. E che fa la scolara, praticamente, l'alunna? Che deve fare? Sì, perché, perché ognuno non si deve imparare, non capito. Non è che è una carica, non è che deve alla quinta elementare. Qui è il sindaco di una cittadina, comunque, no? Alla fine ci sei tu che conosci tutto. Ma non c'è, ci sono io, faccio il mio ruolo. Dice sì, lei deve fare il sindaco con la piena autonomia. La piena autonomia, vabbè. La piena autonomia, senz'altro, sì. Sì, sostanzialmente in quel comizio là, quando hai detto quella cosa, il comizio, io ho detto che lei non conta un cazzo, che la parte pratica dei ruotisi che conosco da tanti anni vivono nella mia è in mano a me. Controllo tutto io, controllo. No, non controllo, non ho detto tutto, controlli tutto. Va bene. Comunque, va bene? Quando è che possiamo venire per visitare la cosa? Ma non me ne frega niente a me. No, per visitare quel palazzo là, quella la struttura? Ma non lo so, quando, ma io non ho capito, siete quelle che dovete fare. Ma non me ne frega niente a me di questo stabile, nulla, meno di niente me ne frega. Non so neanche dove. Non ho capito, sta telefonata che cosa che. Ma no, ma è il mio collega che vuole affittare questo stabile, a me non me ne frega niente, proprio io vado a mangiare al baglione, non mi interessa niente, me ne frega niente. Va bene, va bene. No, però scusa, scusami un attimo. Eravamo rimasti d'accordo che andavamo a visitare questo stabile. Ma io vacci tu, che io non voglio vedere nessuno stabile, non me ne frega neanche mettere l'antenna. Lo vedete che mi sono corretto, vice sindaco, mi sente? Vice sindaco, sì, giusto. Bene. Allora, questo stabile dove si trova? Nel paese. Quanti metri quadrati è? È 1600 metri quadrati. 1600. Ma che ci faccio io con 1600 metri quadrati? Non me ne frega niente, sto a Roma io, me ne frega niente sta roba. Possiamo avere un prezzo di favore o no, secondo lei? Non lo so, non credo, non lo so, devo mai ricapire, devo chiedere, ma se eravate interessati a questa... Siamo interessati, io sono interessato, è lui che non è interessato, adesso sta cominciando a creare problemi. Vabbè, ho capito che state facendo una sceneggiata. Ma nessuna sceneggiata, ho detto solo che... Ho detto solo che Cruciani... No, scusi, non c'è sceneggiata. Non ci offenda, non sia così, però cattivo. No, scusi, sta offendendo adesso. Sta facendo la sceneggiata. Io pensavo che fossero degli operatori che volevano venire a investire nel mio paese. 2 euro a metro quadro. Poi 2 euro a metro quadro. Il sindaco farà il vice sindaco. La sindacessa farà la. Ma 2 euro a metro quadro? A 2 euro a metro quadro? L'esitto, vabbè, pensi in un paese. Ma se lei non è interessato. Ma io sono interessato, e lui, lo dica a lui. Cerchi di convincerlo. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Tre giorni fa mia mamma mi dice: lo sai che ho iniziato ad ascoltare La Zanzara? Oggi torno a casa e trovo un Oral-B in bagno. Mamma. Allora, 12 giugno, ore 12:35, cosa guardiamo? Ma guardiamo l'aria che tira. Ops! Conduce il coglione di Parenzo. Via subito, andiamo su TG.com. Chi c'è? C'è quel stracoglione imbecille, sfigato, fancazzista e assenteista di Ricci. Morale? Caro il mio Tamaro, mi è toccato guardare forum. Ma quanto schifo fa la TV? Ma quanto schifo fa, nonostante che la Eni mi abbia mandato la bolletta con sul canone che io ovviamente estranerò, lo toglierò e non pagherò. Vaffanculo Italia di merda. Ma scusa David, ma cosa fa tutto il giorno? Ma io, il signor Mauro D'Amanto, ma guarda solo la televisione, telefona nelle radio, è un molestatore seriale, cioè una cosa incredibile. Comunque il sindaco di prima, volevo dirti che io ero veramente interessato. Tu volevi affittare sto immobile? Non voglio veramente, poi dove vuoi affittarlo sto immobile? In un buco di merda di paese. No, per carità, adesso quelli si incazzano. Rivolta, esatto. No, non so dov'è, un paese assurdo in provincia di Potenza. Ma per perché carità, sarà bellissimo. Ma poi non ho capito lui come fa a fare i prezzi. Aspetta, voglio dire, non ho nulla contro i lucani in buco, nel senso che per noi è un buco lontano in questo senso. Com'è che si chiama sto posto? Non mi ricordo neanche, non ho idea. Ruoti, sì, Ruoti, provincia di Potenza. Io conosco Ruotolo, che era l'inviato, il vice direttore di Santoro. Ruotolo conosco, da noi Ruotolo. A parlare il signor Lapo Elkan. Ah, ho visto, sì, signor... l'ho visto anche bene in questo video, mi sembra, a Milano, mi sembra, no? Sì, no, a Firenze, dire... scusami, a Firenze. Al PT Uomo, sì. Sì. Ma devo dire che mi sempre... è sembrato lucido, sì, e anche sono molto felice perché è un ragazzo perché molto per bene. Essere lucido, scusa, spiegami. No, lucido, tranquillo. Mi è sembrato lucido come dire, normalmente non è lucido, scusami. No, magari è più, come dire, è più immaginifico, un linguaggio più immaginifico alle volte. No, il linguaggio è magnifico, però mi è sembrato molto sul pezzo, molto. Che ne e mi è piaciuta anche. Non l'hai sentito un cazzo? Lo conosco benissimo l'app. Come non l'ho sentito? Ha detto che ha licenziato i manager. Esatto. Straordinario. Sì, l'ho visto tutto. Ho visto, e mi sembra anche giusto perché vedi lui. Ma che ne sai, te, di come vanno le cose in quell'azienda? Ma mi sembra, ti sembra lui, giusto? Anziché licenziare le maestranze, vedi che è una persona giusta e per bene. Ma dici, che ne ho sai? Licenziato il mio top management perché si erano montati la testa. A loro. Loro. Guarda, mi è piaciuto. Posso dirti sinceramente. Senti questa cosa che fa scompare. Della risata, ma senti. L'ho visto tutto. No, ma senti. Bravissimo è stato. Senti, lo facciamo sentire agli altri. Fallo sentire, ma posso dire che è stato bravissimo. Non ti interessi, non ti importa che lo segua Roberto da Lugano, Fabio dalla provincia di Foggia, Samuele da Firenze, non ti importa che lo sentano pure loro? Sì, sentiamo. Dai. Oggi presenteremo insieme ad Andrea una capsule collection che parla di due temi: Italia Renaissance, che è una rinascita, e No Future Without a Past. Sono due elementi che lavorano insieme. Bellissimo. Adesso io dico No Future Without a Past. Bellissimo. Cioè, ma vedi come parla poi inglese, come sì, americano, vabbè, ragazzi, come moderno, ma come giovane. Con queste premesse, ora tu non è un prodotto. La presenteremo. No, fatemi sentire, vi prego, perché poi uno dice: sì, va bene, io non può darsi che non capisco un cazzo. È un grande uomo di comunicazione. No, peraltro. Ma può darsi che io non capisco un cazzo di vendite. Tu stai affossando le imprese in questo momento. Perché in realtà lui è un grande talento invece. No, però perché... Poli mi dovrebbe fare l'Apo Elkan una volta. Mi dovrebbe fare l'Apo Elkan. Sa farlo dal Poli. Stupendo. Capsule Collection. La capsule collection, ragazzi, uno non può vendere la capsule collection, ma vendi una cosa che si capisce. La capsule collection, no, ma cos'è la capsule collection? Ah, ma che cazzo lo so, appunto, no, dire, cos'è però, la capsule collection? Però è una genialità il fatto che ne stiamo discutendo, senti, quindi è un genio. Senti. Oggi presenteremo insieme ad Andrea una capsule collection che parla di due temi: Italia Renaissance, che è una rinascita, e No Future Without a Past. Sono due elementi che lavorano insieme. Lavorano insieme. No Future Without a Past. Cioè la rinascita e ma a me sembra un genio invece, bravo, bello, determinato. Senti sta cosa, senti questa. Poi molto elegante, senti questa, sempre. Vabbè, quello sì, senti questa. È elegantissimo. Ho capito molto bene che la direzione che stava andando il mio ex top manager non era quella che mi piaceva. Oggi non ci sono più e ho dovuto, come dire, licenziare parecchie persone perché non erano all'altezza delle aspettative. Quante? Diciamo il primo livello. Il primo livello, perché il primo livello si era montato la testa, c'era un po' troppo ego e l'ego è pericoloso. Beh, sì, certo. Bravissimo, vedi? Amico mio, lui dice che l'ego è pericoloso. Lui va dice bene tutto. I suoi manager nella vita va bene tutto, ma io lo dico con ironia, perché non gli voglio bene. Ma sai perché lui lo dice? Perché lui è l'uomo dell'azienda, cioè, lui è l'uomo, ma è l'uomo immagine anche della sua azienda. Comunque la capsule collection, No Future Without No Future Without Past. Non c'è futuro senza passato, che cazzo è? Sì, certo. Samuele Firenze, vai. Certo. Ciao. Dimmi. Pronto? Vai Samuele, vai. Oh, ciao, scusa. No, sentivo sempre che parlavate di queste scie chimiche. Sì, no, veramente non abbiamo mai parlato. No, comunque, no, in questi giorni l'avete accennato qualche cosa, no? Dai. Vai. Però dimmi. Insomma, comunque, io ho visto un video l'anno scorso che c'è ancora su YouTube in cui il capo della CIA, John Brennan, il capo della CIA, che dice un comunicato stampa e ha confermato l'esistenza delle scie. Sì, certo. Sì, dove? Certo. Quando? Perché? Su YouTube. Perché lui YouTube dice, ti dico quello che ha detto lui. Sì, lui ma dice, io voglio capire quello che dici tu, no? Alla radio alle 20.06 c'è un signore che sta per mandarla a quel paese per le scie chimiche. Sono io. No, mi stai dicendo che credi alle scie chimiche? Purtroppo sì. Cioè credi alla pericolosità delle scie chimiche, al fatto che ci siano le grandi potenze che influenzano il nostro clima o il nostro modo di essere attraverso le scie chimiche? La geoingegneria esiste, Di che cosa vuoi parlare però? Cioè, fammi capire, io voglio dire appunto questo qui, che praticamente il capo della CIA, John Brennan, ha fatto questo comunicato stampa. Ce ne sbattiamo i coglioni. Ciao, Roberto da Lugano. Ce ne sbattiamo i coglioni. Roberto da Lugano. Roberto, dimmi. Eccomi, pronto? Vai, dimmi, pronto? Dimmi Roberto, dimmi. Allora, io non credevo che avrei mai fatto questa telefonata. In realtà ti detesto abbastanza, nel senso che ho litigato con te più volte anche in maniera abbastanza violenta, quando Parenzo era rimasto chiuso dentro Auschwitz, non so se ti ricordi. Ma no, tanto tempo fa, per Furison, per motivi animalisti, ti avevo scatenato contro la campagna quando hai detto che i gatti si potevano mangiare. Io non ho mai detto che i gatti si possono mangiare, ho detto che non ci trovo nulla di strano se, non ci trovo nulla di strano se qualcuno li mangia. Vabbè, certo, non lo manderei in galera, non rivanghiamo. Sei tu che hai rivangato, non io. Non è questo, stavo solo facendo una piccolissima premessa. Vabbè, per allora, dire che io, nonostante ti detesti, voglio assolutamente poter continuare a litigare con te. Beh, e a questo punto passo a Parenzo. Io voglio poter continuare a litigare con te, voglio che tu possa continuare a dire le tue stronzate, io posso continuare a ritenerle delle stronzate e anche tu a dire le tue, naturalmente, no? Assolutamente, assolutissimamente. Vabbè, allora, mi pare una cosa di grande libertà. Io sono un ebreo e sono animalista e vorrei avere l'attenzione di Parenzo per un minuto. Eccomi qua, allora, shalom. Shalom Parenzo. Shalom a te. Vabbè ragazzi, non cominciamo. Io vorrei domandare forza a Parenzo per quale motivo lui è vittima di questa sindrome di Stoccolma, per la quale lui chiama fratello qualunque musulmano chiami, no, anche se molto probabilmente qualunque musulmano chiami vorrebbe uccidere lui, sua moglie, le sue figlie, me, i miei cugini, i miei parenti, ma chi gliel'ha madre, detto? Tutti quanti. Ma non è che ogni musulmano è un potenziale terrorista e assassino di cristiani e ebrei? Ha ragione Roberto Di Fondo. Ha ragione Roberto, perché in fin dei conti, sì, però non possiamo fare una conferenza qui, Roberto. No, ma ti dico una cosa, è molto offensivo quello che dice Roberto. Ha detto che in fondo a un islamico, se muore Parenzo e la sua, diciamo, la sua non famiglia, non gliene frega niente. Anzi, sono né contenti. Farà mai, né farà mai qualcosa per difendersi. Ma io sono diverso. Noi siamo diversi, mai. Però. Piccardo, ma noi... Piccardo, David, Piccardo, guarda, io faccio parte della comunità e tu mi conosci pure, anche se non sai chi sono. Ma Piccardo, secondo te, che cosa pensa dello Stato di Israele? Lo vorrebbe distruggere. Lo vorrebbe distruggere. Piccardo, io ci ho litigato un sacco di volte. Piccardo, infatti, dice delle scempiate sulla politica estera. Ognuno ha l'atteggiamento. Ognuno ha l'atteggiamento che ha nei confronti del nemico. Khalid Chaouki non ti vuole uccidere, fidati. Ma che c'entra uno? Khalid Chaouki non ti vuole. Ma che c'entra una persona? Allora, senti, decidiamo che ogni musulmano è un potenziale assassino. Mia zia, ma Parenzo, mia zia Erzlia mandava, adesso grazie al cielo, dopo che è stato costruito il muro, gli attentati dentro Israele sono molto io sono favorevolissimo al muro. Favorevolissimo al muro. Abbattiamo i muri, abbattiamo il muro col cazzo. E mia zia mandava i suoi figli a scuola, uno su un autobus e uno sì, su un altro. Sì, lo so, in tanti in Israele lo fanno, in tanti. E a Gaza, e in Cisgiordania, e in tutti i paesi arabi. Ma lo sappiamo, ma cosa vuol dire? Ma lo sappiamo. In aria perché i musulmani, l'Islam non è compatibile con la democrazia occidentale. E se tu non capisci questa cosa, sei vittima della sindrome di Stoccolma. Ma fratello chi? Chiama Mustafa fratello. Tu sei poi diventato un ebreo collettivo, no? Nel senso che. Ma no, tu adesso non mi interessa niente, Roberto, questa roba. Grazie, ciao. Non mi interessa nulla. Ciao. Ragazzi, la nostra Lores da Vicenza, anche se Parenzo non la riconosce come sua, diciamo, ha preso credo 8 voti a Tiene. Che debacle. La mitologica Tiene e soprattutto la super. Lores da Vicenza. Chiamiamo subito. È 3 giorni che non risponde. Pronto? Lores? Sì. Sono Cruciani, come stai? Beh. Certo, non è andata bene, eh? No, ma guarda. È l'ultima battaglia che ho fatto. Ecco, sì. In che senso l'ultima battaglia? Meno male, va. Meno male. Ma quel moscio lì, cretino, non può stare zitto. Sì, adesso lo faccio stare zitto un attimo. Lo faccio stare zitto. Saluti il suo adorabile figliolo che ho avuto l'occasione di incontrare in una simpatica chiacchierata la settimana scorsa. Guarda, Parenzo. È di un'educazione rara. Tu non hai idea, di cosa rischi, veramente. No, ma in che senso? Scusami. È educatissimo. Non è bello quello. No, cosa? No, ma non è bello. Lui non sapeva neanche con chi parlava. Quell'incivile lì. Ma ho capito però. Sente un coglione che dice a sua madre di andare a fanculo. Maleducato. Lui parla di maleducazione. Maleducato. Quel cretino lì che hai vicino maleducato. Parla di maleducazione. Maleducato, un figliolo educato cresciuto dove? Ma cosa vuol dire ma maleducazione? Dove, quello? Ma dove è cresciuto quello? Ma come l'hai educato? Con quali valori l'hai educato? Ha reagito. Ha reagito una... che non è... ma che bella la famiglia mamma, ma che bella famiglia mio figlio, ammazza, ma che bella famiglia che siete mamma, ma che bella l'assemblement. Ma siccome allora tu devi capire Cruciani sì. Che io vivo sì. A parte il fatto che non me ne frega proprio un picchio, però vivo in un piccolo contesto, conosco perfettamente Tiene perché vado sempre ad Asiago e passo da là, però, avvisami comunque, quando passi Parenzo molto che volentieri cara, a non farti passare mai più, vengo volentieri avvisami. A salutare anche quella comunque. Straordinaria persona di suo figlio che è di un'educazione rara. Dove è cresciuto? In un collegio svizzero? Dove l'ha tirato su? Cruciani, guarda, lasciami. Comunque, perdere. 8 preferenze, no, lei ha preso. Cioè, lei lasciami. questa Amlores ha preso 8 preferenze. Cioè, vuol dire che neanche i suoi parenti l'hanno votata. Non so neanche, punto. Giuro su Dio. No, i miei parenti non abitano a Tiene. Neanche, ma nessuno poco. L'ha votata. 8 allora, persone. 8 voti. 8 sembra. Ecco, guarda, lo so, giuro su persone. Dio che lo so in questo momento. 8 persone, 8. Però diciamo che 8 persone, no, Cruciani, 8. E vabbè, 8, non è che vuol devi dire, fare 8. Suo figlio, Cruciani, poi non so chi altro può averlo. Dimmi un attimo. Sì, ascoltiamo, veramente noi, veramente, a parte la sconfitta. Sì, la sconfitta che pazzesca. Che ti fa stare male perché soprattutto per l'invasione che abbiamo a Chiene. Sì, e spara di qua e spara di là. Ma invasione di Chiene. Del resto a me non interessa proprio niente. Le hanno fatto che una pernacchia nelle urne. Prima gli vi hanno spernacchiato. A parte il fatto che Casarosa paga gli affitti, la luce, gli extracomunitari. E vi hanno fatto così. E vi hanno fatto così. Lo senti l'educazione in persona? Aspetta. Ma dov'è questa invasione? Scusa, dov'è questa invasione a Chiene? Non c'è nessuno. Ma chi va a Chiene? Cosa dite? Scusa, cosa hai detto, Cruciani? Dov'è sta invasione a Tiene, Lores? Sì, ci sono un sacco di extracomunitari e stanno arrivando pieno. Sempre di e perché pieno, hanno votato pieno, per il PD, pieno. Allora, i cittadini? Come mai? Hanno votato per il PD perché, guarda, appunto il motivo per cui io mollo tutto, mollo Tiene, certo. Mollo i Veneti, mollo che, tutto. Oh, io, che guarda, meraviglia! La fine anno, ma cosa fine fa se anno, va all'estero? Mi trasferisco alle Canarie, esatto. Oh, povere Fugio, Canarie, ma viva Fugio. L'Italia! Oh, Fugio, che meraviglia! Mi vive! Ma anche il suo adorabile figlio. Paolo Cruciani, viene con lei alle Canarie, Cruciani, spero. Ascolta un attimo. Sì. Dai, tiene città civile. Tu. Tiene città delorizzata. Sì. Guarda, dovrebbero Renzo, mettere un cartello, Renzo, guarda. Quando entri a Tiene, anziché denuclearizzata. Guarda, mi rivolgo a te, Parenzo. Sì, sentiamo, sentiamo. Ti prego. Tiene città delorizzata. Dimenticati di me. Dimenticati. Lo farò. Io lo farò altrettanto. Ma no, perché? Grazie. Perché? Grazie. Perché? Grazie. No, lo farò. No, dopo no. Tutte le invettive che ha fatto, quella violenza. Si devi combattere ancora quella violenza, dai. Che ha proposto lei, il suo adorabile figliolo. Di me, Parenzo, guarda, violenti. Il mio siete violenti figliolo. Dell'animo, bravo, hai ragione, siamo sì. Violenti, siamo quelli, siamo ruspanti, ecco quello che sentiamo e anche maleducati. Ma sì, ma tu devi andare all'attacco degli immigrati, dei rom, devi andare sempre all'attacco, sì, ma no, in questo sconfitta. Momento la in maggioranza momento silenziosa non è li ha sconfitti. La settimana prossima ciao, grazie. Bello invece. No future without the past, sono due elementi che lavorano insieme. La Zanzara. Parenzo, sono al casello di Albettone e faccio parte dell'Italia silenziosa. Cosa devo fare? La Zanzara. Ma è una roba pazzesca! Giuseppe, vaffanculo. Una volta ero una persona normale, d'estate guardavo le ragazze scoprirsi con le gonne corte, gli guardavo le gambe, gli guardavo il sedere, gli guardavo il seno, gli guardavo il viso, ed era tutto ok, era una vita normale. Adesso per colpa tua hai iniziato a guardare i piedi, cazzo! Vaffanculo! Vai a fare in culo! Comunque, a proposito di Islam moderato, caro Parenzo, in Tunisia hanno arrestato nei giorni scorsi 4 giovani, per oltraggio pubblico al pudore. Avevano mangiato durante il Ramadan. Vabbè, il Ramadan. Dove è successo questo? In Tunisia. Ecco, in bravo, Tunisia, ma noi siamo l'Italia, Tunisia. Siamo la patria del diritto, siamo la patria c'entra? Dei diritti. E allora? Perché ci dobbiamo paragonare con paesi che sono... Io mi sto paragonando a quelli, no, ma che capito, cazzo ma dici? Non è che sono un esempio, siccome molti di questi imbecillotti, cretini, che telefonano alla 800 24 24, dicono portali a casa tua, mandali al loro paese, lì sì che stanno bene. bene, capissero queste persone qui che noi siamo meglio, cioè l'Occidente è questo, l'Europa è civiltà. Ma cosa c'entra? Cosa non c'entra? Dovete paragonarvi con... No, per dire che... Allora, uno della Lega, Arrigoni, dice che quello che è successo all'ospedale San Paolo di Napoli, un tale Arrigoni, dice è una questione culturale, sai, le formiche, eccetera. Ah, sì, sì. In questo reparto infermieri, personale di pulizia, medici non ci vanno? Cioè è possibile che in 10 minuti questa signora sia stata aggredita, coperta da formiche? Probabilmente c'è una questione anche culturale, permettetemi di dire questa cosa. Voglio chiamare Emilio Fede, voglio chiamare Emilione, Emilione, 3 anni e mezzo di condanna, 1.100.000 euro da pagare per la bancarotta di Lele Mora, soldi incassati secondo i giudici ovviamente all'epoca come stecca da Lele Mora, anzi da Fede, soldi che erano destinati da Berlusconi al signor Mora, un impiccio incredibile, dai. Direttore, rispondi, cazzo, è 3 ore che proviamo. Giuseppe, non voglio non parlare con voi. Ho capito adesso che siete la zanzarina, zanzaretta, zanzaruna, zanzaruna. Andiamo. Andiamo. E io sono qui, sto partendo da Napoli. Sì. E io ci sono. Come stai? Benissimo, sto discutendo di questo. Questo è un casino, è nato un casino. Ma è nato un casino, Emilio, ancora una volta. Ovunque, dove ci sei tu c'è sempre un casino. C'è sempre un casino. Dove ci sono io sarà un casino. 3 anni e mezzo, amico mio, 3 anni e mezzo. Ma dai. Cioè, ma che sono impazziti? Come li giudichi questi qua? Cioè, io giudico questo tribunale che deve riflettere, una colpa di coscienza ce l'ha. Ha fatto una sentenza che non esiste. Oh, io non ho preso soldi da nessuno. Amico mio, dicono che hai preso un sacco di soldi, un milione. Che devi restituire 1.000.000, cioè, ma ce l'hai questi soldi poi da restituire allora, o no? Ma dove ce l'ho? Dove li prendo? Vado al casinò di Monte Carlo, gioco e li prendo e finanzio la curatela. Ma questo la curatela è un cretino idiota che chi è? E che ne so come si chiama, Gigiogetto, Gigino il puzzolente. La cosa fondamentale è che tu devi cacciare 1.100.000 secondo i giudici. Pazzesco, devi cacciare questo. Fuori 1.100.000. Come Ma fai? Come fai? Allora, come faccio? Attraverso la zanzara, che siete voi, facciamo un appello perché io su 1.200.000 vorrei rimborsare 50 euro. Tanto quanto basta che si comprino le noccioline e si mettono in una gabbia al posto delle scimmie. Davvero? Al massimo do 50 euro, dici? Io al massimo pagherò 50 euro. Dovessi aspettare l'appello, la cassa. Ma che volta! Scusa, ma in banca, oggi in banca, se uno dovesse andare là a vedere quanto hai in banca. Esattamente. 2.800 euro. 2.800 euro in banca. Sul conto? Sul conto solo 2.800. Eccetto, su che cosa? Perché tutto quello che hai lavorato, tutti i milioni che hai guadagnato, amico mio. Ma quali milioni? Dai, ma io ho la pensione, loro tentano a prendere a sé quest'anno il quinto della pensione, ma vadano a fanculo. Eccolo. Ti pignoreranno sicuramente un quinto della pensione, sicuro, matematico. Quello è sicuro. Facciamo il punto, la pensione quant'è? 9.870 euro. Tu mi stai dicendo che è una pensione così, non è una pensione... No, è una pensione che mi basta elegantemente per vivere rispetto a tanta gente che non ha come campare. Vogliono sequestrarmi un quinto della pensione? Facciano. Questo della culatella è un'altra cosa. Sai cosa hanno fatto? E vi prego, se ridete su questo chiudo il telefono e vi mando il culo. No, mi risulta che hanno accelerato i tempi dell'eventuale risarcimento. Hanno detto, qualcuno ha detto, bisogna fare in fretta perché è vecchio, se ne va. Questo è brutto. Questa è brutta. Bravo, no, questa è brutta, devo dire. No, ma questa è una vergogna, indignati per questo. Voglio fuori il nome, immagino. Questo dalla culatello bolognese, lì come si chiama. Cioè, no, tu dici uno... ha chiesto di affrettare i tempi del sequestro. Pezzi di merda. Perché dice tanto questo, a questa tassa ne va. Se qualcuno ha detto questa frase, facciamo in fretta, se no poi ci scappa perché se ne va al creatore. Sì. È un testa di cazzo, va bene? Però scusa, se devono andare a prendere questi soldi, dove li vanno a prendere? Hai detto che c'è 2.800 euro dentro... Sì, e però sono i mobili, c'ho le giacche, c'ho i pantaloni, ma... non posseggo un bene immobiliare. Non... Scusa, ma dove cazzo l'hai messo i soldi che hai guadagnato? Pazzesco, giustamente, però. Diceva prima Parenzo, ti sei ridotto a avere 2.800 euro in banca e la pensione, basta. Bunga bunga, non c'entro. Però ma qualche volta al casino ci andavo. Quanti soldi hai perso al casino? 150-200 mila l'ho preso. Scusa, la casa la paghi, l'affitto paghi o no? Io pago l'affitto in una casa, sono subentrato in affitto in una casa che è di media 7. Dunque quanto paghi al mese? 3.000. Mi hanno detto che c'è un autista extracomunitario. L'extracomunitario sarebbe niente se non è un cretino. Ma perché è cretino questo poveraccio? Scusa, che c'ha? Che ha fatto? Sono cretino, non capiscono l'italiano e vogliono lavorare da noi. Facciano lavorare i nostri, che non vogliono lavorare. Ho fatto una richiesta di ridurmi l'affitto. Sai di quanto me l'hanno ridotto? E li ringrazio. Ovviamente chi? 200 euro. Cioè Berlusconi, tu gli hai chiesto, no, riducimi l'affitto? Beh, una società di Berlusconi. Ma non puoi andare a casa con tua moglie anziché avere la casa per i fatti tuoi? È più semplice. Ma mia moglie vive a Roma. Il problema fondamentale è che tu non vuoi andare, non vuoi mettere piede in una camera dove c'è tua moglie. Ma io lo capisco. No, una camera, una casa. In una casa. Voi mi prendete alla Zanzara come sarebbe vostro dovere per esercire un povero ricchetto. Comunque, la cosa incredibile che ci hai detto è che tu hai chiesto una riduzione dell'affitto a Berlusconi, a una società di Berlusconi? No, a una società di Berlusconi, uguale. Una società. È una società. Ho capito, però uguale, cioè è sempre Berlusconi, cioè no, uno. No, questo non me lo fate dire perché poi. Ma me l'hai detto tu, me l'hai detto. No, ho capito, ma con tutte le case che ha Berlusca, magari una te la può anche dare, comodato d'uso, tanto c'hai più di 80 anni. Non ho la possibilità di chiederglielo, glielo chiederò. Dunque, il prossimo passo è chiedere a Berlusconi, con tutte le case che ha, di darti una casa fino a quando non crepi. Questo avevo chiesto, il vitalizio della casa. Quando dico di Berlusconi, perché la casa c'è la parte di... Oppure puoi andare a Arcore. Potrei coltivare le giraffe. È pieno di animali con la brambilla, come è finito male? No, ma la brambilla non c'entra niente, la brambilla non si deve vantare di niente. Come no? Perché Berlusconi amava gli animali prima della brambilla. Poi per ha merito tuo? La brambilla e l'ha assunta come... animalista, sia un animale. Non c'è una grande simpatia tra signor Fede e la signora Brambilla. No, sta sulle palle, che è ben diverso. Ma perché? Ma che è successo? In questo devo dire, sono d'accordo col direttore. Io amo gli animali, ma questo fatto che la Brambilla debba essere la porta borse, che ne so, il problema degli animali mi ha rotto le palle. Lele Mora, come lo consideri il signor Mora? Diciamo qualcosa di chiaro su Lele Mora, dai, su. Ma sai che lui ieri ha detto che hai fatto la cresta. Ha detto, ha fatto casomai una crestina. Se dovessi adesso sganciare questi soldi, cosa faresti? L'asta di ciò che ho, sono mobili antichi, cose eccetera, potrebbe anche andare bene. E la galera, scusa, 3 anni e mezzo? Col cazzo che vado in galera, non posso mica andarci, mi metterò nei servizi sociali. Certo non vado da Tommasi. La sentenza di ieri fa amaramente ridere. E come dai a dare 1 milione? Spiegami. Credo che questi signori della culatella potrebbero consentire la rateazione. Vabbè, capito? Emilio, ti saluto. Ciao. Ciao ragazzo, ciao. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'INPGI. Sì. Di liquidarmi il mio fondo pensioni. Quanti soldi devi avere dall'INPGI? Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo! No, Emilio, scusa, ma si è arrabbiato con loro? Rotti i coglioni! Siete delle merde! Andate a cercare nel mio privato! Ma noi abbiamo... Ma noi che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre. Fra cazzo, sia la tredicesima e stipendio, 15.000 euro! Ho rubato! Ma che è successo? Ma scusa, ragazzi! Andate a fanculo! Le leggi dello Stato, ti senti sfortunato, ti senti perseguitato, offeso, amareggiato! Allora, in prigione! In prigione, sei proprio tu in prigione, e che ti serva da lezione. Allora Marco da Roma, vai Marco da Roma. Non c'è, ricordo, Giulio da Frosinone. Diventò un rap quella cosa lì, me l'ha detto, no? Giulio da Frosinone, vai Giulio. Sì, buona salve. Sì, no, sì. Io volevo dire una cosa soltanto. Quando voi dite che, soprattutto tu, dici che l'Islam non è una religione di pace, è una religione aggressiva, dici fondamentalmente una cazzata. Ma cosa? Dimmi, cosa? Che sei un convertito tu? Che sei un convertito? No, io sono ateo come te, quindi no. Che sei un ammiratore dell'Islam? un ammiratore del... no, l'Islam no. È incompatibile, l'Islam è incompatibile con la civiltà occidentale, no, questo lo penso mio, io. Dopodiché, se c'è qualche mio, islamico che si mio. Adatta ai nostri principi, che sono dei principi grandemente liberali, va benissimo, va benissimo, ma si devono adattare, altrimenti l'Islam personalmente lo trovo incompatibile come modello di vita, come modello culturale. Ma non è che li voglio cacciare, non li voglio cacciare. Scusa, devi andare fino in fondo, qual è la conseguenza di questa cosa? Se non violano le leggi, nessuno va cacciato. Se non violano le leggi, ma se dici che sono incompatibili, no, ma come principi è incompatibile. Il modo in cui si relaziona alla donna è incompatibile con la nostra civiltà. Punto e basta. No, ma scusa, ma l'altro giorno te l'ha fatto capire il signor Piccardo. Ma anche Adinolfi è incompatibile con la nostra civiltà. Non è vero, non dire stronzate. Quando Adinolfi, no, non è la stessa cosa, dai. Se venissero applicate, ma per fortuna sono contro la legge, le cose che dice Adinolfi. Non sarebbe essere contro l'aborto, essere contro l'aborto si può fare. Non è che io la nostra civiltà. Ma sì, ma io sono a favore, che c'entra? Ma uno può essere legittimamente contro l'aborto. Non è la stessa cosa di quello che dice di essere a favore della poligamia. Dai, non diciamo puttanate. È uguale, in ogni caso dico io che semplicemente questi popoli hanno un difetto, cioè che sono troppo più ignoranti di noi, è questo il problema, sono civiltà sottosviluppate. Ma questo è un altro discorso. Provincia di L'Aquila. Comunque ti voglio informare che in Colombia è stata appena legalizzata l'unione di tre uomini. Sì, questa è incredibile, l'abbiamo sottovalutata questa cosa. No, abbiamo sottovalutato questa cosa. La famiglia poliamorosa, tu dovresti invece sostenere, anziché, mica sono musulmani questi qui. Questi tre uomini, non so se siano musulmani. A parte che è un caso, non so se... Tre uomini hanno scelto erano di costruire... Erano quattro addirittura, prima erano quattro, uno è morto di cancro. Tre uomini hanno scelto di costruire un regime patrimoniale speciale. È stato legalizzato il poliamore fra tre uomini. Io non so se le leggi, un giudice ha... diciamo creato una specie di famiglia a tre, sì. Una specie di... ma che mi piace marito, che sei impazzito marito e marito, ma sei impazzito, che mi piace, è un orrore secondo me. Magari a te piace è con due un donne. Orrore la comunità con due donne. La comunità LGBT, l'avvocato della comunità famosa LGBT. Bravo. Della Colombia, sai cosa ha detto? Ha detto che è la dimostrazione che non c'è un solo tipo di famiglia, è una cazzata. L'unione a tre è un abominio, non c'è bisogno di Adinolfi per dirlo, lo dico io. No, ma sono l'unione d'accordo con te, a tre, ma questi non sono musulmani, è un però. Abominio, non ti è una famiglia. La famiglia è a due, Froscio, in Colombia. Froscio, tanto a Medellin, Froscio, uomo, no, uomo, sono donna, uomini. No, dico, la famiglia può essere di diverso tipo, uomo, donna, donna, donna, gay, certo. Gay, Froscio, etero, gay, eccetera. Sì. Può essere, ma a due, non a tre, non a quattro, e non mi dicano che dopo l'unione a due viene l'unione a tre di conseguenza. Sì, ma non è in una Arabia puttanata. Saudita questo, l'hanno vabbè, fatto è un caso in Colombia, vedrai, vabbè, è un caso, intanto, verrà smantellata questa roba qui, te lo dico io, verrà smantellata. E comunque, mi dispiace che in Colombia passino a Medellin in particolare dai narcos ai froci, cioè ai froci, dai narcos alle unioni grave. A tre tra ma tre che froci. Te ne frega a te, mi pare ma molto mi dispiace più questa narcos cosa qua, cioè, sì, forse più grave direi. Narcos. Mauro, provincia direi. Di Lago. Però sono passati curiosamente dai narcotrafficanti, no? Alle unioni a tre tra omosessuali. Vabbè, d'accordo. Contenti loro, Mauro della provincia dell'Aquila, vai. Mauro. Oh. Mi sembri, no? Esempi, Carlo Verdone, nome, una donna, nome, una donna. Sì, è ma uguale. Non mi arrabbio. Chiamiamo se Taormina dice. Per un commento su questo. Sulla cosa famiglia a tre. Allora, Davide, sì. Permettimi. David, ma insomma. È accaduto qui nell'entroterra aquilano. Che è successo nell'entroterra aquilano? Dimmi, non si sente un cazzo, c'è l'auricolare, la voce sicura, no, 100%. No, non c'ho niente, mi sono preparato perché so che poi vai. Vai Mauro, vai, dimmi. Nell'entroterra aquilano, che precisamente il paese di Trasacco, che probabilmente conoscete a motivo di Piero Tarigoni. Va bene. Il tizio rivendica giustamente un credito da questa persona di colore. Questa persona di colore pensa bene di dover risolvere il problema. Entrando in negozio e picchiandolo e poi riuscendo, mentre questo braitava, questo povero negoziante, giovane, veramente quarantenne, gli ha dato una botta col maglio di ferro, il pugno di ferro. Sì, però scusa, ci stai raccontando un episodio di criminalità comune. Ecco appunto. Cioè, di che cazzo ce ne frega a noi? Meno male. Spiegami. Che... Cioè, no, ma Mauro, per carità, qual è il punto? Cioè, ci stai raccontando nel tuo paese un tizio nero, negro, come ti pare, extracomunitario, immigrato. Ma lo vuole dire, ve lo dica pure. Ha, come dire, un debito nei confronti di uno, questo lo reclama e lo ha picchiato. Dunque... se ti dico i carabinieri e i magistrati ci sto arrivando, non posso essere come te bravissimo, no? Sintetico alla... No, ma lascia perdere, dunque? Quindi, l'accaduto, questo tizio, questo adesso, questa persona è ricoverata in ospedale, con l'occhio perso. Vabbè, la ma... domanda è... Ha perso un occhio questo qua? Sì, praticamente quello vabbè, che... Vabbè, lo hanno arrestato questo qua? No, è questo il punto, non solo non l'hanno arrestato, ma gira liberamente con la bicicletta per tutto il paese. Ma indipendentemente... Non so, amico mio, mandami il numero di questo qua, indagheremo. Dunque, cosa vuoi dire? Te la prendi con gli extracomunitari, no, con gli immigrati, che cosa? Dimmi. A Davide, che tra parentesi stimo e rispetto, Davide, 4.000 anni fa, quando fu data la Torah, i residenti forestieri, gli stranieri che venivano in Israele, si dovevano sottomettere alla legge, se volevano. Ma che c'è? Questo è un caso di criminalità comune, però, amico mio. Ma ciao Mauro, niente, ciao. È... Mi sono rotto i coglioni, ciao. Giuseppe, quando vuoi. Beh, amica mia, palessati però, palessati. Francesca Follonica. Francesca, cara, ciao, ciao. Pronto, ciao. Come stai? Ciao, Giuseppe. Molto non c'è bene. Male, non c'è tu male. Come stai? Che ci vuoi dire? Francesca conosco da Follonica. Conosco molto bene io Follonica, perché andavo anche in vacanza a Castiglione della Pescaia, che è là vabbè, vicino. Vabbè, sti cazzi però, si può anche no, aggiungere dico... sti cazzi. Sì, sì, per carità, lo dico per lei. Vieni che ti fruttarizziamo, anche fai maremma. Fruttarizziamo, vieni. Perché tu sei fruttariana, non ho capito. Ma sì, avevo sentito che volevate diventare fruttariani e pensavo no, nessuno, di darvi qualche consiglio. No. Amica mia, io guarda, ti posso assicurare che io tutto voglio fare tranne che diventare fruttariani. Mi dicono tra l'altro che mangiare troppa frutta fa veramente male. A parte che fa ingrassare. Ma dai, a che cosa per esempio? Allora, la frutta fa ingrassare. Giustamente dice Parenzo, la frutta fa ingrassare. Me l'hanno detto, fa ingrassare. Sì, sì, non c'è dubbio. Sì. La frutta fa ingrassare. Seconda cosa, certo, tu come sei, magra? Non lo so, secondo te come posso essere? Non lo so, è la Francesca, radio questa, che ne so, cara, non ti posso immaginare. Ragazzi, c'ho un fisico della Madonna. Il ma culo come ce l'hai? Fa ingrassare. Il culo come ce l'hai? Pensando? Il culo come ce l'hai? Culo è sodo oppure molle? Vuoi dire che non hai smanettato sui social per vedere come c'è il culo? Mi ma vuoi come dire faccio? Scusa, non ti conosco, cara Francesca, come faccio? Scusami, spiegami come ma questo. Dai, ma tu sai tutto, tu prevedi tutto. No, ma ho capito, in tre secondi, Francesca, Follonica, fruttariana, non è che riesca a arrivare. Come ce l'hai sto culo, Francesca? Ovviamente sodo, grazie alla frutta, grazie allo sport, grazie ai geni, sicuramente. Sì, ma io non ho capito, perché hai scelto di diventare fruttariana? Spiegami. Signora Francesca. Spiegami. Sono partita perché? dall'etica. Sono diventata vegetariana e poi vegana. E poi è stata una scelta di salute, provare per credere, cioè, se tu provassi me lo diresti. Cosa mangi? Dopo, non credo cosa mangi, interessi. Francesca, spiegami. Mangio esattamente. Frutta dolce fino a sera. Sì. Prevalentemente mele, ma non solo. Sì. E frutta ortaggio e frutta grassa la sera, in quantità. Non faccio certo la fame. Cioè tu non mangi mai, no. Non mangi mai verdure, non mangi mai verdure, né non mangio verdure, carne. Non mangio legumi. Ma ecco, ma allora, perché i legumi? Devo perché hanno un po' di vita. Hanno un po' di vita. L'avocado è considerato frutta, l'avocado, sì. Sì, l'avocado certo. È frutta grassa, sì. Sì, frutta grassa. Vi confesso una cosa solo a voi, non lo dite a nessuno, mi raccomando che rimanga qui, eh. Dimmi, cara. Ogni tanto, raramente, faccio uno sgarro a base di ceci. Dice il sgarro a base. Terribile. Ma scusa, anche tu sei convinta? Anche tu sei convinta che diciamo. Ma se tu inviti questa qua a cena è una svolta praticamente, perché non ti costa niente. Non è vero, ci sono certi ristoranti vegetariani che costano un sacco di soldi. Ma questa è fruttariana, questa qua. Quindi ma la frutta costa cena... pure un sacco di soldi, non ti preoccupare. La frutta costa tantissimo. Cioè, ma poi lei piglierà la frutta quella bio, non so che cazzo, piglierà dove? Sì, costa purtroppo costa un sacco sì, di quattrini. Tutto quello che guadagno praticamente lo spendo così, una tragedia. Brava. Comunque c'ha una voce arrapante da morire questa Francesca. Ecco l'altra. Una voce arrapante da morire. Ecco l'altra. Non mi fa recitare anche a me, per favore. Beh, allora, vi lascio soli. Dire che è molto importante, molto importante. È molto importante la vitalità che ti dà la frutta, l'equilibrio psicofisico che ti dà la frutta. Ma scusa, tu la questione etica, prima... la questione etica, tu dici sì. Perché ovviamente gli animali non li vuoi ammazzare. Ovviamente, sono partita da quello. Sei partita dagli animali, adesso non te frega più un cazzo degli animali. Cioè, con un carnivoro potresti scopare? Oddio, deve essere proprio tanto, tanto bravo, però non credo più di una volta. Poi a volte mi dà noia l'odore, capito? C'è un po' un odore diverso, ma non so. Cioè, i maschi, ma lo so, però è una domanda che ti faccio. I maschi carnivori, cioè non hai chiamato per parlare di sesso, lo so, d'accordo, però a me viene in mente il fatto che... Dottore, forse problema in allivo? Sì, però... Dopo. Totole, no, cioè. Forse problema. Non ti sento bene, invece mi piace molto quando mi parli sopra, ti voglio sentire meglio. Cosa Dottore... stai dicendo? Forse problemi in arrivo, stanno per parlare di porcherie, dottore, no. Io lo dico, dottore, sono intervenuto. Dottore, intanto sta a mezzo al cazzo. Scusami, scusami Francesca, io voglio capire, gli uomini carnivori hanno un odore particolare? Hanno un odore diverso? Cannuna dice anche a me fa questo effetto, che tigre questa. Ma cosa dice? Vabbè. No, che c'è, sotto. C'è il signor Robert Cannuna. Robert Cannuna che dice anche a è me fa questo effetto. E cosa c'entra? Beh, un ebreo, Robert, per capire, un ebreo che non ho mica detto che è un mafioso, cioè, ho detto che è un ebreo che vive nel particolare, in Israele. Se vuoi sapere il dettaglio, è il nipote di David Zard, peraltro. È il nipote di David Zard, benissimo. Cioè, che peraltro, la gente non è tenuta a conoscere chi è David Zard. Comunque dice che tigre questa. Ma che tigre? Che ne sai che è una tigre? Ma non lo so, dalla voce lo scrive adesso. Si è arrapato pure lui, vabbè. Allora, Francesco. Ma non mi date della tigre che è carnivore. Mamma mia, non è proprio la mia attitudine. Scusami, ragazzi, scusami però Francesca, allora io voglio capire, con un carnivoro ci scopresti solo una volta al massimo se proprio non ha un odore brutto, giusto? Diciamo di sì, è un po' ridotta ai grezzissimi livelli, così, però dai, sì, diciamo. Ecco, ma per una fruttariana fare sesso cosa significa? Quello che significa per tante altre persone, no, non fruttariane, ho capito, ma c'è una vitalità maggiore, invece come ci ha raccontato uno, sei un po' più debole da quel punto di vista fisicamente. No, no. Assolutamente no, uno ci ha detto, ma uno ha detto io sono fruttariano due tre giorni fa, quattro giorni fa, dunque sono più debole sessualmente, non ma ho che questa cagata. Vabbè, ma perché un segaiolo lui, si può dire segaiolo, sì, è un segaiolo dire, lui, guarda, dai, si può dire di tutto, no, ragazzi, anche, allora, è anche poco spiego. Segaiolo, sì, dimmi brevemente, dimmi. Quello che succede è che si dorme di meno, ma senza sacrificio, cioè proprio sei tu uno spillo, ti svegli la mattina e sei così. E non ti fa male niente. Io prima, facendo molto molto sport, avevo dolore alle giunture, cioè mi usuro molto, adesso... non sono una fruttariana rispettosa che fa risparmio, capito? Sono una macina. Ora non ho più un dolore e poi a livello psicofisico, cioè anche mentalmente, sono sempre allegra. Ma è una cazzata, dai, più allegra, no, più in forma. Di no. Ma dai, ti su. Giuro di no. Ma dai, su. Giuro, Giuseppe, devi provare. Francesca, ma devi non ho capito, i legumi, secondo te contengono vita i legumi? Hanno qualcosa della vita i legumi? Tutto contiene vita, tutto energia. E dunque però tu non li mangi, non li mangi per quello? Cazzi, ma no, non li mangio per solo salute. Solo per salute? No. Cioè solo frutta fa bene? No, perché sono un po' più di fitotossine di altre cose, dai. Ragazzi, quindi preferisco purificarmi. Vabbè, una frutta. Direi, Francesco, ma ci non vuole le manca la pasta, no, che so io. Ci il vuole riso, una seconda puntata con Francesco, vabbè. Dobbiamo chiudere. Seconda puntata. Sì, ma invitatemi lì, no? Dai, ci divertiamo. Beh, amica mia. Ma hai dato una grande detta così, idea, signora, una però, grande cioè, idea. Detta così, però. Subito io, La fruttariana di Follonica. A domani, sì, ragazzi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. So, alle 8, ha ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare.